24 mattino. Rieccoci, 8, 17 minuti, 55 secondi, il tempo dei cani e dei gatti, Luca Telese e Oscar Giannino. Oscar. Eccoci qua. Ah, ecco, e non ti sentivo. Eccoci, ecco. E meno mai, ho fatto prima, sono i nostri, tra virgolette, versi onomatopeici della nostra parte. In cui certo, ci caliamo. Che l'autobomba a Malta mia, contro una giornalista fa venire in mente la strage di Capaci, fa venire in mente precedenti veramente drammatici. Indagava sulle Malta Leaks, sulle menzogne e sui finanziamenti e... Leggo solo una riga di Maurizio Crippa sul Foglio. Aveva una bella faccia da film di Almodóvar, mediterranea, con una passione per gli orecchini smodati. E Daphne è morta ieri, Caruana Galizia, perché cercava la verità. Certo, per chi conosce Malta e sa quale crocevia sia di finanza, tra virgolette, molto discutibile, nel senso che è uno dei luoghi centrale dove si incrociano e si ripuliscono capitali. Beh, insomma, la modalità, io l'ho twittato subito, o è mafia di Stato addirittura, cioè non si può avere dubbi, lo dico, il giornalista deve parlare solo di fronte a dati di fatto, però l'oggettività delle piste su cui lavorava, del lavoro che ha fatto, del modo in cui è stata coraggiosa, aveva denunciato la famiglia del premio, esatto, ha costretto lo stesso leader maltese a dire immediatamente tutti sanno come non mi sopportasse. Ciò malgrado nessuno può ovviamente se non ridire di fronte a un'esecuzione di questo tipo, però credo che in questo caso a essere colpiti si devono sentire tutti, perché sono colleghi di un valore assoluto. Allora discutiamo su una cosa su cui abbiamo opinioni diverse ma con molta civiltà. Immagino che tu sia contento, perché cioè soddisfatto, perché era... sostenevi questa linea. Alla fine i nati del 52 resteranno al lavoro e questa è una delle prime grandi novità della manovra, no? Vabbè, questa è l'impostazione scritta. Tu lo sai che al Senato, siccome la maggioranza non ce l'ha il governo, vedremo questa, la legge di bilancio di ieri. Fammi dire solo tre cose al volo. Primo, sì, io aspetta, diamo i numeri. 800 24 00 24 per chiamare, lo sapete. 349 238 6666 per messaggiare. Vai. Non abbiamo il testo, come sempre, pessima abitudine. Speravo che Gentiloni ci desse il testo. Quando dice che il Consiglio dei Ministri approva, approva, invece ancora una volta non ha approvato. Ieri in conferenza stampa persino Padoan le domande doveva dire no, io i dettagli della decontribuzione per i giovani, che pure è la parte fondamentale della manovra, non me li chiedete, passerà qualche giorno. No, le dismissioni, no, dobbiamo vedere. E allora che cosa votano il Consiglio dei Ministri? Però due, la cosa fondamentale, i numeri, a cominciare dal deficit, 1,6%, che è un deficit molto stretto, che non va bene neanche al PD di Renzi, nonché quello che mi hai chiesto tu, cioè se davvero non cambia l'età, il requisito grafico per il pensionamento. Vediamo al Senato a dicembre, perché vedrai che lì il governo balla, lo sappiamo, perché i bersaniani e chi sta ancora più a sinistra lo hanno detto chiaro che non passa. E i sindacati, ecco, no? I sindacati, come ovvio. Quindi secondo me il vero bilancio dobbiamo tirare alla fine di questa legge. Allora, su alcuni costerebbe punti. 3 miliardi nel 2020, ma io sono meno ottimista dal mio punto di vista, nel senso che penso che andrebbero fatte delle modifiche selettive, soprattutto per lavori usuranti, che non si può essere più nel XXI secolo con l'indifferenziato, tutti alla stessa età a prescindere dal lavoro che si fa. Ma dicevo, mi sembra che però l'ingresso stabile di Verdini in maggioranza dia più sicurezza. Ma il problema è che poi c'è una campagna elettorale da fare, c'è una campagna elettorale da fare per Renzi. Sai il posizionamento cosa fa? Sceglie Verdini e il rigore. Renzi dice che lui vuole il deficit per 5 anni al 2,9%, è questo che ci ha detto che dirà in campagna elettorale. Quindi sai, questa è una legge di bilancio che propone un deficit del 2018 all'1,6%, che è molto ristretta, perché non dice solo no ai prepensionamenti, dice anche no al passaggio fino a 1 miliardo almeno per il SIA, cioè gli interventi sulla povertà. Qui sono solo 600 milioni, apprezzabili, però la sinistra ha chiesto almeno 1 miliardo. La sinistra, lo ricordavamo in questi giorni, tu per primo chiede di ritoccare il super ticket sanitario e ieri Padoan Gentiloni ha detto no. Vediamo, io non credo molto al fatto che possano davvero dire tutti questi no e farla passare com'è, però vediamo. E si tratterà di aspettare fino a dicembre, perché inizia prima la Camera e poi va al Senato. ho l'impressione che ci sia una partita, vediamo se siamo d'accordo leggendo i giornali di oggi. La grande novità politica a sinistra, anche se per ora sono fumate interlocutorie, è che Renzi per la prima volta, pressato da Veltroni, che è stato il suo grande sponsor della festa di sabato, dica va bene, apriamo a sinistra e proviamo per la prima volta a recuperare anche la sinistra bersaniana in coalizione. Quindi penso che se hai ragione tu, penso che tu sia molto vicino alla verità, non conosciamo i dettagli di retroscena, ma se entra la sinistra c'è una contropartita di questo tipo sulla spesa sociale, se no maggioranza verdiniana, la guerra come la guerra. Insomma, bisogna vedere quanto Renzi sia davvero convinto, perché sai che a volte il nostro grande Matteo è capacissimo di dire che fa una cosa, poi ti dice io voglio allearmi con te, pausa, brutto stronzo. E allora a quel punto capisci che io voglio proprio allearmi con te, antipatico che non sia. Insomma, questa finisce subito nel fritto misto. Vabbè, Stefano da Roma. Stefano, pronto? vai. Sei? Buongiorno. Sulle pensioni, io ho 50 anni, andrò in pensione a 69 anni ed è giusto così, perché i miei genitori potevano andare in pensione con 18 anni contributi. Abbiamo un debito mostruoso sulle spalle. Recuperiamo quei soldi e diamoli ai ventenni, trentenni di oggi. Che lavoro fai? Io sono un dipendente a tempo indeterminato, sono un assicuratore tra l'altro, quindi il discorso delle pensioni un po' lo conosco da 30 anni, ecco. Bene, però siamo d'accordo che fai un mestiere diverso da chi conduce un autotreno? Questa è la grande rivoluzione fra i due partiti talebani. Lavorate fino a 200 anni e quello che l'assista. Non esiste. Andiamo tutti in vacanza, andiamo che non via esiste. Tutti con le pensioni facili. L'idea è, se sei un assicuratore, senti che puoi farcela e pensi di poter continuare a lavorare, il limite tuo deve essere diverso da chi sta in fonderia, da chi guida un treno. Però non è oggi così, non è normato. Perché? Perché ogni volta che vai a dire quali categorie sono usuranti, succede l'ira di Dio in questo paese. Succede l'ira di Dio, sì, perché ne abbiamo già fatte. Anch'io sono usurato. Io voglio usurare, non usurarmi. Lo vado a dire allora, un muratore di 20 anni di oggi, quando dovrà andare in pensione? Il sistema non regge. Ma non potrà andare in pensione a 70 anni. Non lo so, mi sembra. Quindi vanno riviste le categorie. È l'unica riforma di cui la politica non parla. Decidiamo insieme con un grande patto generazionale chi è che deve necessariamente lavorare fino a età molto alte e chi no, se no non ne usciamo. Simone da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Sì, buongiorno a tutti. Grazie per ospitarmi. Io volevo fare una breve riflessione sulle notizie che sono state riportate sulla rassegna stampa di questa mattina, in particolare quella citata dal Messaggero, che è molto critico sui referendum per l'autonomia. Non mi stupisce, perché il Tempo e il Messaggero è evidente che insomma sono espressione anche di un certo tipo di interessi. E a volte accanto agli articoli dove sono critici e contestano il referendum sull'autonomia, accanto ci mettono un articolo dove rivendicano legge speciale per Roma Capitale, quindi più soldi per Roma Capitale. Però ecco, io volevo invitarvi. Tutti rivendicano. Però ci com'è? Dica. No, tutti rivendicano, però il problema è se è vero o no quello che dicono. Che dice Giuseppe Roma, mio amico ex Censis, che oggi deve essere andato un po' fuori, e dice che Lombardia e Veneto sono idrovore di soldi dello Stato. Sono cresciute grazie ai fondi dello Stato. Io gli voglio Stato, bene, dico. Ma ambulanza, questo è il mio commento. Proprio gli voglio bene, Giuseppe Roma, ci conosciamo da una vita, però credo che il giornale gli abbia fatto un po' calcare la mano, per così dire. Se andiamo a vedere, non c'è dubbio, dal 2009 al 2015, il surplus tra gettito e invece spesa pro capite pubblica in Lombardia e Veneto è pari al deficit invece di maggior spesa pro capite rispetto al gettito di tutto il centro-sud, cioè sono 329 miliardi di surplus per Lombardia e Veneto e 307 miliardi tra 2009 e 2015 in tutto il centro-sud. Sono i numeri che danno torto, infatti non ne fa nemmeno uno dei numeri. Però lo sai che no, nel fondo di Viesti, nel fondo di Viesti. C'è scritto che contesta il dato del surplus di 50, certo, di residuo fiscale, 50 miliardi, 54 questo miliardi. Questo è il paese in cui tutti si dicono che i numeri sono inventati. E dice che è la metà, sì, che dovrebbe essere 27 miliardi. Vabbè, senti. Ti sto leggendo un dato. Ma io quello che dati, vuoi, io ripeto, no, i numeri sono quelli, sono quelli concatenati dell'Istat. Il professor Andrea Giovanardi, che insegna a Trento, diretto tributario, le ha retweetati giorni fa. Sì, io dicevo, adesso ho letto che la il rassegna. Centro-Sud si permetta di dire che chi dà ogni anno, e lo dà per solidarietà, mica sto dicendo rapina, però i denari senza di cui il Centro-Sud non starebbe in piedi, di dica che il Nord sono idrovore di soldi pubblici, beh, è un paese che non sa ragionare. Cioè, finiamo come la Spagna e il Portogallo, con la Spagna che ha iniziato ieri a fare gli arresti, il Portogallo, perdonatemi, la Catalogna, con la Spagna che stanotte ha iniziato a fare gli arresti. I toni di questo tipo, quelli di Viesti, che usa Giuseppe Roma, sono i toni dello scontro di piazza, e mi sorprende che l'informazione possa insufflarli, perché vuol dire che non stiamo capendo che c'è un ragionamento da fare tra Europa delle regioni e Europa delle nazioni. Visto che Roma è di queste è uomo di numeri, ma anche molto civile, lo chiameremo in seguito. Facciamo finire Simone, anche per via. Che è rimasto un po' appeso. 800 24 00 24, tantissime telefonate, anche la vostra segreteria 02 30 22 44 92. Simone, ecco, prego. Grazie, vi ringrazio. Solo un'ultima annotazione: sarebbe utile ricordare che da alcuni anni i bilanci, i rendiconti delle regioni sono sottoposti a un giudizio di parificazione da parte della Corte dei Conti, perché credo nel 2012 siano entrate in vigore delle norme che prevedono una revisione, un cambiamento dei principi contabili per la formazione dei bilanci delle regioni. Addirittura prima di questa fase i rendiconti delle regioni mi risulta che non erano sottoposti nemmeno a un banale controllo da parte di il controllo c'era, il controllo c'era, il giudizio di parificazione non c'è solo dal 2012, però i criteri contabili dei bilanci pubblici locali non erano omogenei in Italia, e quindi questo consentiva, diciamo così, consentiva peggio, molto male, di fare un raffronto vero. Quindi è vero che la disciplina è stata, come ricorda lei, in questi anni, grazie al famoso rigore che molti dicono esserci stato nel nostro paese, anche se la spesa può continuare a salire, ma detto questo i controlli sono diventati più rigorosi, ma perché i principi sono diventati omogenei, quindi diventano più comparabili tra loro, si capisce meglio chi il denaro lo fa sparire nelle pieghe del bilancio, come avveniva prima, oppure no. Ecco, questo è il punto. Allora, Michele Dorvieto, lo salutiamo subito e poi dopo la pubblicità. Michele, resta l'inchiodato fra un secondo. Ma fammi ridere, fammi ridere, caro ascoltatore, Simone, fammi ridere. State ascoltando un programma offerto da Dottor Jay e Mister I. Trasforma la tua azienda con Jay Galileo e Power 8. jaygalileo.com. Mattino. E siamo nella pagina dei cani e dei gatti, tante telefonate all'800 24 00 24, ospiti importanti fra breve, e però finiamo con Michele Dorvieto che è rimasto appeso. Pronto? È in linea? Sì, volevo semplicemente sottoporre l'attenzione di Radio 24, la radio di Confindustria, un fenomeno che secondo me è una delle cause per cui abbiamo una disoccupazione giovanile così alta, cioè il fatto che moltissime aziende usano ed abusano gli straordinari, anziché assumere preferiscono utilizzare questo strumento perché comunque a loro conviene, nonostante abbiano un aggravio del costo quando si va in straordinario. E questo sicuramente è un fattore che contribuisce ad avere questa tassa di disoccupazione giovanile così alto. No, se vuole le spiego perché. Vai Oscar, vai. Perché questa, io capisco che molti siano indotti a fare questo ragionamento pensando che il lavoro sia, per così dire, una torta fissa in cui il problema è ripartire tra il maggior numero di fette di quella torta fissa. Il lavoro A non è una torta fissa, B non è uguale a prescindere di chi lo faccia. Quindi per un'azienda l'utilizzo dello straordinario, che come giustamente sottolinea lei è oneroso, perché è preferibile rispetto all'assunzione di un nuovo? Una persona nuova non ha le stesse competenze della persona che svolge quel lavoro lì supplettivo, che è richiesto a lui perché lui abbandoniamola questa idea che siamo tutti uguali, perché non è vero, ciascuno sa fare, è stato addestrato e anche col tempo all'interno di qualunque posto di lavoro ha acquisito delle competenze per fare quello che fa, e lo straordinario lo fa lui perché fa quella cosa lì, non una cosa che arriva un altro ed è uguale per l'azienda nell'unità però di tempo. Però forse Michele si riferisce a alcuni casi in cui magari si fanno gli straordinari e ci sono altri colleghi altrettanto addestrati che stanno in cassa integrazione. Se fosse vero quello che dite voi, se fosse vero quello che dite voi, tre volte, se fosse vero, perché per le aziende è un onere, non farebbero questa cosa qui. Invece entriamo, per favore, ve lo chiedo per favore, tutti in un mondo nel quale il lavoro è diverso, perché noi siamo diversi, non c'è alcuna torta fissa del lavoro. Ecco. Allora, Paolo Darò e poi Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana. Paolo. Sì, pronto. Salve. Sulla questione di andare a distinguere le categorie, sì, per andare in pensione prima, diciamo, due brevissime domande. Una, se c'è già qualche paese, magari europeo, che adotta questa tecnica. E la seconda è come impedire che uno venga assunto magari l'ultimo anno a 60 anni in un lavoro usurante per poi chiedere di andare subito in pensione. Ah no, però non c'è questo rischio, non è che uno fa il manager fino a 60 anni e poi a 61 fa un anno il manovale. Perché? Perché c'è una storia previdenziale che è data dai contributi, per cui c'è un'anagrafe, sappiamo esattamente che cosa abbiamo fatto, dove, come. Anzi, ora c'è ancora il problema dei cosiddetti scongiunti, quelli a cui non si consente, hanno fatto lavori in diversi enti previdenziali, di ricongiungere questa la sua carriera. Questa è una roba veramente incredibile. Follia, bisogna pagare il riscatto. Come quelli che sono rapiti, pazzesco, rapimento previdenziale. Allora, Nicola Fratoianni, però grazie Paolo, perché è un dubbio che a molti può venire. Segretario di Sinistra Italiana, oggi sui giornali c'è per la prima volta raccontato il retroscena di nuove trattative, le pressioni di Veltroni per fare un'alleanza. Allora la domanda è: potrebbe realizzarsi lo scatto che immagino i retroscenisti, cioè Renzi non fa più il candidato premier e Sinistra Italiana e i bersaniani entrano in coalizione e non si candidano più contro sui collegi uninominali? Buongiorno, innanzitutto grazie. Buongiorno. Rispondo subito, faccio dire soltanto una cosa rispetto al ragionamento che ho appena ascoltato di Oscar Giannino sul tema degli straordinari, perché quel ragionamento sulla qualità del lavoro, sulla formazione, sul sapere accumulato avrebbe un fondamento se la gran parte del sistema di impresa italiano non facesse da anni esattamente il contrario, cioè disinvestire sulla formazione, assumere magari con gli incentivi. Vabbè, ancora rinnovati nella manovra. È libero, la invitiamo apposta per dirla, però ideologia. No, vabbè, non è ideologia, pura allo stato puro. Ma quali dati? No, abbia pazienza. Io parto dando le ragioni e lei mi risponde con ideologia. Mi dica quindi i dati. Lei fa un ragionamento fondato. La verità è che questo è un paese nel quale buona parte del sistema di impresa assume con contratti brevissimi, poi li rinnova quando scadono gli incentivi e disinveste sulla formazione, che non esiste più nel sistema di impresa di questo paese. La formazione di impresa, che è stata una grande tradizione e anche una conquista del sindacato e del miglior sistema di impresa, è completamente distrutta. Abbia pazienza, il sistema territoriale delle imprese ha creato 93 fondazioni territoriali per fare le tesi. Infatti non mi fa parlare, parli pure, il politico parla, non c'è problema. Formazione. Parliamo tutti, naturalmente. Ah, c'è dubbio. Ma io volevo soltanto. Però lei mi ha chiesto un dato e io gliel'ho dato. Soltanto esprimere un punto di vista su quella questione che mi pare molto importante. Invece vengo subito alla domanda, anzi mi scuso se... No, ma anzi... Drittoli, qui si interloquisce. Non so che cosa farà Renzi. Credo però che lo schema suggerito da Veltroni, e a cui in diversi lavorano, cioè quello di ricostruire il classico... Cioè quindi è vero che c'è sia uno schema... sia uno schema andato, decotto dal punto di vista dei processi reali che si sono determinati, dei processi materiali. Io non credo che ci sia più lo spazio per immaginare il fondamento di quell'impianto, quello del centro-sinistra. Quindi sicuramente voi vi presenterete contro nei collegi, perché questa è la domanda dopo il focus di Diamanti, che dice che per due punti si possono perdere tutti i collegi. Non c'è alcun dubbio. Anche se Renzi non sarà il candidato premier. Non c'è alcun dubbio, perché il problema non è Renzi. Adesso diciamoci la verità. Io credo che concentrare tutta l'attenzione su una sorta di demonizzazione di Matteo Renzi sia piuttosto poco lucido, ma non perché io abbia, diciamo, punti di accordo con la linea di Matteo Renzi, naturalmente, ma perché credo che il problema sta da un'altra parte, sta nelle scelte politiche. Adesso qualcuno pensa che dal Job Act alla buona scuola, allo sblocca Italia, alla tentata riforma costituzionale, a Rosatellum 2.0, come diavolo si chiama, e via dicendo, siano tutte idee nate solo ed esclusivamente nella testa di Renzi, che non hanno a che fare col gruppo dirigente del Partito Democratico, con un'idea che nel Partito Democratico nasce perfino, se vogliamo andare un poco indietro, al Lingotto di Veltroni. C'è un'idea nella fu quale il Lingotto fu la grande convention programmatica, lo spieghiamo, diciamo, sennò, sì, quando Veltroni esatto. divenne segretario. Esatto, ha fatto bene a precisarlo, ho dato erroneamente per scontato, che nascono financo lì. Se non vediamo questo, io credo che non siamo in condizione di parlare al Paese, e serve, credo, una proposta, io sono convinto, che indichi su tutte queste questioni ricette che hanno il segno di un'inversione di rotta. Del resto mi pare di poter dire che in giro per l'Europa, dove le sinistre, peraltro di diversa tradizione, perché parliamo di cose molto innovative sul piano culturale, sul piano della forma organizzata come Podemos in Spagna, o esperienze assolutamente classiche di lunghissima storia come il Labour Party di Corbyn, riconquistano consenso, tornano ad avanzare dopo anni di lunga crisi, quando sono in grado di indicare un'inversione molto chiara. Le chiedo molto netta. L'ultima sì. cosa, poi non so se Oscar ha delle domande, riguarda un'altra questione cruciale. Vi siete opposti molto voi alla legge elettorale, può spiegare dal suo punto di vista, proprio che lo possa capire un bambino, perché? Allora, intanto c'è una prima questione che riguarda il metodo con cui è stata imposta, il voto di fiducia. La fiducia su una materia prettamente parlamentare come la legge elettorale, che riguarda le regole di tutti, è un atto che io considero molto grave in sé, perché costituisce un precedente inquietante. Se funziona così, se va bene così, ogni volta che una legislatura si avvicina alla fine, siamo a pochi mesi dal voto, la maggioranza di turno impone con la fiducia una legge elettorale che sia più consona ai propri interessi. A me pare che questo sia serio problema democratico. E poi perché quella legge è un grande imbroglio, introduce i collegi uninominali ma non consente il voto disgiunto, cioè non consente ai cittadini di votare per quella persona e magari però con quel voto di non vedere assegnato il proprio consenso a uno dei tanti partiti, magari diversi tra loro, che sostengono quella persona, visto che le mini coalizioni che si producono non hanno nessun vincolo, vincolo programmatico, vincolo di leadership, insomma sono coalizioni di interesse a geometria variabile, si fa la coalizione con Alfano al sud, la coalizione con qualcun altro al nord, con qualcun altro ancora al centro, questo per il PD, ma vale anche per il centro-destra o per altre ipotetiche coalizioni. La macchia di leopardo. Esatto, e poi perché questa è l'ennesima legge che consegna al Paese un Parlamento che per 2/3, forse di più, è composto da nominati, cioè da persone magari degnissime, ci mancherebbe, ma scelte a prescindere da qualsiasi elemento di selezione libera dei cittadini. A me pare che questo sia un problema, e per questa ragione, oltre che per altre, ma adesso non la faccio lunga, noi abbiamo considerato questa legge un imbroglio, e soprattutto un imbroglio imposto con un meccanismo inaccettabile sul piano parlamentare. Grazie. E del resto, che la legge elettorale sia così, lo testimone dell'intervista di Brusco nel Corriere, caro Luca e caro Fratoianni, che dice: ma che bisogno c'è? Io non dirò mai chi è il nome che farò per guidare il governo. Che è congegnata così la legge convergenza tra PD e Forza Italia. No, una cosa brevissima per Fratoianni: semplicemente l'argomento di Renzi è perché dire. Perché tu chi pensi che possa essere quel nome? Scusa, no, Oscar, no, non ho più pari da idea. Penso che lo debba fare lui, e il solo fatto che il capo della forza politica che dice che vuole governare dica con una nuova legge elettorale, no, cari elettori, non ve lo dico, è il succo dell'intesa tra PD e Forza Italia. Sai cosa circolava a Montecitorio? Mi lascio senza parole. Cioè. Tagliani Gentiloni, a seconda di chi arriva primo. C'è anche Maria Elena Boschi, se per questo, però detto questo, se permetti, invece sono relazioni giornalistiche. No, io volevo che Fratelli dicesse qualcosa su un punto, perché l'obiezione che fa il PD è tutti coloro che fanno il ragionamento, per esempio quello che ha fatto lei, che capisco, dicendoci in Europa c'è per esempio l'esperienza di Corbyn, c'è l'esperienza di Podemos, insomma la via più radicale è una via per ripensare le esperienze di governo, terza via e così via. Però l'obiezione PD dice: chi fa questo ragionamento vuole dividerci, farci perdere e far vincere gli altri. Cosa si risponde a questo? Ma rispondo che questo è un ragionamento, se possibile, ancora più decotto della formula o delle formule astratte, centro-sinistra, Olivo 2, 3, 4.0, perché la verità, questo penso io, è che, come dimostra il caso austriaco, sul quale tanti commenti hanno, secondo me, il difetto della superficialità, che succede? Vincono le destre, anche le destre peggiori avanzano, in particolare avanzano nella pancia dei loro paesi, sul terreno, come si sarebbe detto un tempo, dell'egemonia, conquistano consenso perfino culturale, all'indomani di che cosa? Non all'indomani di una divisione, all'indomani delle grandi coalizioni, cioè conquistano consensi ed avanzano quando la cosiddetta sinistra, la sinistra di governo, quella responsabile, quella che ci dice a noi ma se ci dividiamo perdiamo, sì, con gli altri, ha fatto le politiche della destra. Ora chiunque, a prescindere insomma da quel che pensa su ogni singola questione, sa per esperienza che quando qualcuno fa le politiche dell'altro, di solito si sceglie l'originale. Se io cedo sul terreno culturale, sociale, politico, poi tendenzialmente quello che su quel terreno ci è arrivato prima, in questo caso la destra, ci resta la destra guadagna, vera, quella che si chiama così, Strade. Si guadagna. Allora io rispondo a loro: per non far vincere le destre, per evitare che questo accada, bisogna fare solo una cosa, bisogna fare politiche di sinistra. Scusate, pubblicità, torniamo subito dopo, tanti ascoltatori in linea. Buongiorno a Fratoianni. Cimici, calpestate senza dignità! Mattino. Di nuovo qui con le vostre voci, Oscar Giannino, Luca Telese e Tiziano. Tiziano da Milano. Pronto? Prego. Sì, buonasera, buongiorno. Volevo solo fare una domanda. Io verso i contributi da ottobre del 1974, verso i contributi, non lavoro, lavoro da prima. Ho 61 anni. Secondo Oscar Giannino, che stimo, no, vabbè, quando cosa andare fa? In vabbè, ragazzi, se volete fare di questo una specie di idropolemico, io capisco, ma stiamo andando un po' oltre l'impostazione di questa trasmissione. No, non chiedete a me, io non faccio il ministro, quindi abbiate pazienza. E del resto Luca Telese non ha il potere di mandarvi in pensione. Che a 50 lavoro anni, fa? Quindi che lavoro fa? Pazienza. Ma perché devi essere polemico? Ma perché rifiuto l'idea di fare di una trasmissione un foro polemico? Ma non è un foro polemico, dai, è una persona Luca, che ha chiamato. Ha chiamato e dice: io sono coloro per cui non può andare in pensione. È sbagliata questa idea, cari ascoltatori. Quindi ragioniamo in termini generali e non sul caso individuale, perché l'Italia, che sul caso individuale pretende sempre l'eccezione e la comprensione, non possiamo fare una legge per cui ci sono su 40 milioni di italiani in posizione lavorativa, sono 23 milioni però quelli che possono, che lavorano oggi ufficialmente, fare 23 milioni di casi. Ci vogliono delle norme generali. La norma generale che non vi piace è quella dei coefficienti anagrafici automatici collegati alle aspettative di vita. Ecco, su questa cioè norma, quella prevista dalla Fornero. Quella prevista dalla Fornero, che è una norma che serve per contenere lo squilibrio 5 volte del sistema previdenziale, che c'è ed è rilevante in un paese che ha una spesa superiore al 15% di spesa previdenziale anno, cioè 4 punti più della media degli altri paesi con cui ci confrontiamo. Detto questo, voi potreste dirmi: chi se ne frega dello squilibrio? E invece poi alla fine lo squilibrio chi lo paga? Lo pagano quelli che ogni mese, siccome siamo in un sistema di ripartizione, vi deve pagare le pensioni, capite? Mentre voi siete convinti che siccome avete versato i contributi, cioè avete il vostro tesoretto che vi dà diritto, non ce l'avete. Io non so come dirvelo, in un sistema a ripartizione i contributi che avete versato sono stati tutti utilizzati mese per mese. Mi certo, potreste dire è ingiusto, sono d'accordo con voi, infatti io voglio un sistema scambio, capitalizzazione, è uno scambio generazionale, però non l'ho disegnato io questo sistema per cui tutti telefonate e dite: caro Giannino, perché non mi vuoi far andare in pensione? Io figuratevi, non dipende da me, difendo solo dei principi generali che invece in Italia vengono calpestati e dimenticati, perché è facile dire andate tutti in pensione prima, poi mi spiegate chi paga però? Ecco, questa è la mia domanda. Esiste il diritto alla domanda retorica: in un paese civile qualcuno lavorerà di più perché vuole farlo e qualcuno lavorerà di meno perché non può lavorare in un più. Sistema a capitalizzazione e poi si può fare meglio quello che Lucarelli arriva. Cristina, prego, da Novara. Non si sente purtroppo, mi dispiace. Allora, Selvaggio Lucarelli, buongiorno. Il caso Weinstein sta diventando un terremoto e ha coinvolto il presidente Trump indirettamente, ha coinvolto Clinton, ma la grande domanda è il dibattito su Asia Argento, che esplode su tutti i giornali, sulla stampa, tante opinioni, ha denunciato, ha fatto bene, ha fatto male. Sul fatto c'è un tuo bellissimo pezzo, vorrei parlare anche di questo, quindi magari parti da qui. La web gogna per le brutte, l'ultima moda. Buongiorno. Sì, buongiorno Luca, questo è un altro discorso, è una moda, ahimè, che sta prendendo piede in Europa. Sembrava che l'Italia fosse stata risparmiata, si chiama pull a pig, cioè inganna un maiale. E raccontalo perché è sconvolgente. Si tratta sostanzialmente di adescare via web possibilmente, ma non è detto, anche in un locale, in un luogo pubblico, una ragazza particolarmente bruttina e possibilmente o grassa. Molto in carne, grassa e fingere di essere molto interessata a lei, quindi corteggiarla, eccetera, eccetera. Arrivare poi al punto in cui lei si fida, magari si è innamorata, eccetera, e quando lei si dichiara il tutto, svelarle che in realtà era solo una gogna, una derisione. E quindi sì, poi la cosa ha varie sfumature. Inganna certo. Il maiale, tu fai un'intervista sconvolgente, addirittura hanno postato le foto di lei durante rapporti sessuali per poterla deridere, lei ha fatto una dieta drammatica anche sottoponendosi sì. a un'operazione dopo. Ma è una follia, sì. Ma questi sono matti. Luca, i mezzi che abbiamo oggi sono bellissimi, meravigliosi, ma sono anche strumenti pericolosissimi perché aggregano non solo il bene ma anche il male. Quindi è più facile fare branco, è più facile deridere insieme qualcuno, è più facile trovare il giochino che faccia sorridere la collettività o il gruppo chiuso, il gruppo nascosto. Oscar, ma ti rendi conto, sedurre una persona, andarci a letto per poterla fotografare, solo per poterla fotografare e sputtanare, è una cosa da pazzi, qui ci vorrebbe un super reato. Però riflettiamo, qui non so se il super reato sia la vera risposta, perché? Perché la mia opinione, riflettiamo sulle parole che usiamo, sono matte e condivido anch'io perché viene da istintivo dirlo, ma nella realtà se ci ragioniamo, arriviamo alla conclusione, per questo sono utili gli interventi come quelli di Selvaggia, alla conclusione che non è vero, non abbiamo gli strumenti per pensare che davvero siano devianti. Il problema è che questi sono comportamenti di massa che si manifestano perché sono insiti davvero nella testa, nei sentimenti e nell'istintività di un vastissimo numero di noi tutti. Questo è il punto drammatico. Questo è vero, però posso dirti, prima poteva accadere che tu fossi vittima di bullismo e fossi vittima di un gruppetto, che ne so, in classe certo. c'erano 20 persone, ecco, ce n'erano 5 che ti prendevano di mira. Oggi adesso è un moltiplicatore di milioni. Esatto. Questa è una recita. Cioè tu seduci una persona, impegni del tempo, ci vai a letto, cioè è una recita drammatica. Dura, sì, sì, è una fiction dura. Realizzata a spese dirette sulla vita e la pelle. Mamma mia. Allora, devo dire che lei è molto coraggiosa, insomma, sì. ha messo la faccia, ha denunciato pubblicamente, poi non l'ha fatto in un commissariato perché era complesso, però insomma, è stata molto coraggiosa. E poi si è ricostruita, come dice lei. Oggi mi piaccio, un corpo, il corpo lo puoi operare, la testa no, è bellissimo. Selvaggia, in sintesi, il tuo parere sul caso che sta terremotando Hollywood, l'Italia, la politica, tutto. E come fai a farlo in sintesi, un commento del genere? Esatto. Io credo che non si siano spesi fiumi di inchiostro su questo tema, come su questo tema, neanche su Mani Pulite. Ci sono mille sfaccettature. Posso dire che la piega che sta prendendo in questo momento non mi piace per nulla, cioè il cluedo dello stupro, adesso poi questo twittare a 16 anni con un regista sì. partire con capito, fare il cluedo, è lui, no non è lui, cioè questo comincio a trovarlo mettere fango nel ventilatore, non mi sembra questo il sistema. Riguardo il resto, come ho scritto ampiamente, io ritengo che lei abbia detto la verità, che sia stata molestata indubbiamente, però la parola stupro francamente la scomoderei per altri. Allora fatti. Siamo sul filo di lana, ti chiediamo di tornare perché questi pochi minuti non bastano. Oscar, l'ultima parola a te, un secondo. Quando il governo capirà che non esiste al mondo qualcuno che vuole pagare per prendersi all'Italia tal qual era, com'era, visto che le offerte arrivate ieri dicono il contrario, sarà un bel giorno perché il contribuente italiano avrà meno soldi bruciati inutilmente. A domani, cani e gatti, ciao! Cane e gatto è un amore odio. Guardi, solo amore. Dottor J e Mr. I, trasforma la tua azienda con J Galileo e Power 8. JGalileo.com vi ha presentato 24 mattino.